Ben ritrovati e ben ritrovate alla fuga del gatto. Non ci credevate, eh? Lo so che non ci speravate più. Avete detto, vabbè, è andata così. Bella, questa trasmissione, la fuga del gatto purtroppo è finita. No, invece no, ci siamo solo presi un po' una pausa. Come forse molti e molte di voi sanno, siamo stati presi un po' da un turbine. Radio Wombat è stata un po' centrifugata dalle mille cose che sono successe in quel di Firenze, belle per fortuna, il Festival della Letteratura Sociale, alla Polveriera, Hack Meeting, al Next Emerson, insomma tutto ciò ci ha centrifugato e ha centrifugato la nostra, il nostro palinsesto, l'avrete notato probabilmente, ma anche in bene, insomma si è arricchito di molti contenuti extra, come dicono quelli commerciali, e noi non commerciali non siamo, lo ricordo, Radio Wombat, tutt'altro che commerciale, anzi radio autogestita sulla frequenza 1359, onde medie o mediocri che dir si voglia. Sempre che siate così fortunelli e fortunelle da essere raggiunti dal nostro segnale, oppure anche e soprattutto in rete la potete trovare in streaming andando sul sito wombat.noblogs.org e troverete il nostro palinsesto, le nostre dirette, se siete, insomma, se vi state collegando all'orario giusto, oppure anche a caso, magari troverete le dirette, oppure troverete le nostre repliche e vi consiglio sulla appunto pagina wombat.noblogs.org. Blogs.org, pagina, oddio, Facebook si sta impossessando di me. No, volevo dire il sito, il nostro bellissimo sito wombat.noblogs.org. Lì potete trovare il palinsesto con tutte le repliche, tutte le dirette, gli orari e quant'altro. Perché da adesso, insomma, si ritorna un po' al ritmo regolare. Anche se vi preannuncio, come ve ne sarete accorti, finalmente dopo questi 12, 13, 14 mesi di inverno, adesso è arrivata l'estate e tra qualche tempo probabilmente il palinsesto subirà nuove variazioni, causa ferie, vacanze, mare, montagna o quant'altro, ma la fuga del gatto secondo me non vi tradirà e rimarrà qua più o meno sempre, perché dove volete che andiamo? E così posso anche dire di Slick Chick, ve la butto un po' lì, visto che approfitto di questo spazio per ragguagliarvi anche sull'altra trasmissione che curo, ovvero Slick Chick, che anche questa da martedì prossimo ritornerà in formissima, sempre su Radio Wombat, ovviamente. Bene, vi ho detto tutte le informazioni di così tecniche che vi dovevo dare. Ah, sì, perché poi abbiamo pure avuto un po' di problemini tecnici, me ne sarete accorti a fine, no, a inizio settimana scorsa, ma adesso insomma siamo in forma, siamo tornati e la fuga del gatto ricomincia con puntata solitaria perché sono qui da sola, lo sentirete, non ho la mia degna compare al mio fianco, ma sono da sola, ma vi prometto che non vi deluderò. Come dicono anche degli spot spesso girati da questi microfoni, e la puntata di oggi parla, fa un salto bello all'indietro nella musica medievale, la musica gotica potremmo dire, con Guillaume de Machaut. Vi dico subito, tanto per se ci sono no, i microfoni, come si dice, dietro gli altoparlanti, insomma, voi che mi state ascoltando, probabilmente, no, non so, ma se c'è qualcuno di molto colto che ha insomma, come dire, la sensazione che io stia dicendo male tutte le parole, le pronunce e quant'altro, ecco sì, è molto probabile, non è che, cioè lo nego, sì, però d'altronde, si tratta di francese antico, ve lo dico subito, scusate, sto un po' tergiversando perché nel frattempo mi si è abbuiato completamente il computer. È così. E io ora con dei salti mortali vedrò anche di rimetterlo a posto, perché la vita del wombat, del wombato, è una tragedia, cioè proprio una tragedia, non se ne fa mai una giusta. Comunque dicevamo, la pronuncia appunto francese che appunto snocciolerò da questi microfoni per tutta la puntata, per tutta la durata della puntata, in realtà è una pronuncia un po' a caso perché non è quello di cui parliamo oggi, è francese medievale, francese in particolare del 1300, e 1300 onestamente ha delle pronunce tutte un po' sue, tutte un po' strane. E che vi devo dire, non, cioè, boh, ho provato un pochino a guardare, ho provato a capire cosa poteva essere, cioè, se si legge in un modo o in un altro, eccetera, e non mi è riuscito. Non mi è riuscito e quindi che è andata così, cioè, vi beccherete le pronunce che vi beccherete. Nel frattempo io sto cercando con la mia terza mano di rimettere a posto tutto, ma non mi sta riuscendo. E quindi, ahimè, vi devo un attimo abbandonare perché sono anche da sola in regia e quindi non posso neanche mettervi un pezzo. Ah sì, invece è tornato. Oh, quanta fatica, ma no, vedete perché poi uno si prende le vacanze, sparisce, ora lo sapete il perché. Ecco, è tornato tutto, la tecnologia mi vuole di nuovo bene, sono di nuovo qui, vi ho farneticato soltanto per pochi minuti e riprendendo il discorso, dicevamo appunto la mia pronuncia francese di Langueil o Langlois, che dir si voglia, o Languedoc anche se oggi non parleremo tanto di Languedoc, è appunto abbastanza agghiacciante, è fatta veramente a caso, ma spero e confido che voi non ne sappiate meno di me o comunque non vi formalizzerete. Quindi Guillaume de Machaut, uno diciamo dei compositori più importanti del XIV secolo e probabilmente uno dei compositori francesi più importanti in generale, anche se devo dire, ahimè, la sua musica è tutt'altro che famosa, è stata tramandata a noi in pochi esemplari, lo vedremo. E si parla appunto del 1300, in particolare Guillaume de Machaut pare che nacque esattamente nel 1300. Chiaramente quando si va così indietro nel tempo e gli anni di nascita e i dati biografici sono piuttosto vaghi e imprecisi, quindi insomma diciamo intorno all'anno 1300 e muore nel 1377. Il suo nome, Guillaume de Machaut, indica probabilmente il suo luogo di nascita, la città di Machault, appunto, che è in quello che oggi viene chiamato il Dipartimento delle Ardennes, e in particolare, insomma, adesso possiamo dire, vista l'attuale geografia della Francia, che Guillaume de Machaut è nato e morto a Reims. Tra l'altro è probabilmente il primo, uno, almeno uno dei primi compositori, non solo francesi, ma in generale, del quale siano arrivate fino a noi delle informazioni biografiche di rilievo. Quindi, insomma, questo anche per dare come dire, la sensazione di quanto l'idea, ecco, di quanto questo compositore era importante al tempo e poi anche nei secoli successivi. Machaut compose delle opere, molte opere vedremo, anche se ce ne sono arrivate purtroppo poche, e spaziando tra molti generi, stili e generi, ma è arrivato fino a noi, più che altro per essere parte importante, direi fondamentale, del movimento di rinnovamento in qualche modo della musica attuale che era chiamato e venne chiamato successivamente Ars Nova. Ora vedremo poi nel particolare di cosa si trattava. Machaut rimase famoso anche per aver contribuito allo sviluppo del mottetto e poi anche di altre forme di musica. Poi vedremo non solo sacra, anche sacra, ma non solo. Anzi, in particolare le cose probabilmente più interessanti erano nella musica profana. E lo vedremo dopo, le forme fisse, in particolare il rondò, il virelet e le ballade. Ma torniamo un attimo all'Ars Nova, Perché l'Ars Nova è fondamentale e ci permette di capire anche un po' meglio la musica e le composizioni di Guillaume de Machaut. L'Ars Nova è quel periodo, più o meno, convenzionalmente viene appunto definito all'incirca intorno al 300, anche se poi insomma inizia ecco, nel 300, poi però si sviluppa anche un po' dopo, e quel periodo caratterizzato da un sistema di notazione proprio a livello tecnico, sia di notazione sia della ritmica che della musica vera e propria, un sistema nuovo rispetto a quello che era in voga e che era in vigore nei secoli precedenti. Chiaramente stiamo parlando di una notazione, di un modo di scrivere la musica, di in qualche modo regolamentare molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati adesso. Gli spartiti e le partiture che abbiamo adesso in mano e che vengono scritte negli ultimi secoli sono ben diverse da quelle medievali. Fino al 300 erano ancora diverse. C'erano insomma, si iniziava a fare un discorso sulla standardizzazione, per usare termini molto moderni, della scrittura musicale, e fino a quel momento ce n'era, insomma, si era deciso alcune convenzioni. Dal 300 in poi, con l'Ars Nova, si arriva a un nuovo stile, si aggiungono delle regole, si cambiano alcune che già c'erano. In contrapposizione a questa Ars Nova, ciò che c'era prima veniva chiamata Ars Antiqua o Ars Vetus, ovviamente. In particolare ci si fa riferimento alla produzione polifonica, del 1100 e 1200, ecco. Per esempio, alcune, giusto per darvi una spolverata, perché chiaramente non abbiamo tempo e non ho neanche le competenze per entrare troppo nel dettaglio, ma giusto per dare una spolveratina così infarinata di ciò che viene cambiato a livello tecnico, ad esempio, viene aggiunta la maxima, veniva chiamata come il valore superiore alla longa. Sotto c'erano valori minori che erano la semibrevis e la minima. Chiaramente vi renderete conto che queste sono poi gli antenati di quelli che poi sono state le durate delle note per come sono arrivate fino a noi, la minima, la semibreve, eccetera. La brevis diventa l'unità di misura di una pulsazione musicale. Anche questo fino a quel momento non c'era ed è stato molto importante per arrivare a una codifica molto precisa, beh, molto precisa, insomma, un parolone, però insomma, almeno più precisa rispetto a quella che c'era prima. C'è una nuova concezione del tempo nell'Ars Nova, in particolare se il rapporto tra un valore musicale e un altro era di 3, si diceva che il tempo era rectum o perfectum, se invece il rapporto era 2, si diceva che il tempo era alterum o imperfectum. Ovviamente dietro a tutta questa diatriba tecnica si celano insomma, delle elucubrazioni anche di tipo filosofico, ma anche qua non abbiamo il tempo di sviluppare tutto ciò, ovviamente. E poi, tipico anche dell'Ars Nova, è che si cominciano a porre all'inizio del brano le chiavi e i modi, cosa assolutamente non banale, e che inizia proprio appunto con questa forma musicale, con l'Ars Nova. All'interno dell'Ars Nova ci sono molte forme compositive che vedremo sono tipiche della poesia e della musica. In particolare parleremo di alcune stasera, il Virelai, il Rondò e boh, poi accenneremo anche a Lai, anzi Lai. E poi in realtà ci sarebbe anche tanto altro da dire, ma attraverso la musica di Guillaume de Machaut più o meno attraverseremo soprattutto queste forme musicali qua. Partiamo dal Virelai, anzi, scusate, poi insomma, vi farò ascoltare anche un po' di musica per alternare alle mie parole. Il virale è una forma di versi che veniva impiegata moltissimo sia nella poesia e anche nella musica. Ovviamente al tempo le due cose erano strettamente legate e non deve stupire che si parla di virale, appunto di forma, al tempo stesso sia per la poesia che per la musica. E le regole compositive che valevano per la poesia valevano, e quindi anche per le parole, valevano anche poi per la musica, quindi per le note e le ritmiche. Questa qui, il virelè, è una delle tre forme fisse che venivano chiamate in periodo forme fisse, appunto, sono proprio queste forme musicali che ricorrono che insomma in qualche maniera sono delle regole compositive e hanno delle caratteristiche ben precise a cui il compositore si attiene e decide di attenersi. Altre, appunto, le citavo prima, erano la ballade, la ballata e il rondò. Queste forme poi vedremo, verranno riprese anche più in là. Tra il XIII e il XV secolo il virelè probabilmente era la forma più usata, insomma, che veniva, quantomeno per quanto ne sappiamo. Il virelè è molto simile al rondò, di cui vedremo meglio dopo i dettagli. Ogni stanza per stanza si intende ogni pezzo, non si può neanche dire strofa in realtà, però diciamo se possiamo dividere la composizione in più pezzi, ecco, ogni pezzo lo chiameremo stanza. Ogni stanza ha due rime e la rima finale della prima stanza si lega alla prima rima della seconda. E in questa maniera potremmo definire più o meno la struttura musicale ABBAA, con la prima e l'ultima sezione che hanno le stesse liriche precise. Fra l'altro, questa è anche la stessa forma della ballata italiana, lo vedremo anche dopo. Guillaume de Machaut era uno dei più famosi compositori di virelè e scriveva sia la musica che i versi. Sono arrivate ai giorni nostri circa, se non sbaglio, 33, sì, 33 composizioni di virelè, ma non era ovviamente l'unico a scrivere in questa forma, anzi, e fra l'altro uno degli ultimi a valersi di questa forma fu Guillaume Dufay, che abbiamo già, insomma, fatto ascoltare da questi microfoni, beh, non lui in persona perché è morto diversi anni fa, ma la sua musica, ecco, l'avete ascoltata alla Fuga del Gatto qualche puntata fa. Quindi direi che adesso vi ho introdotto abbastanza e possiamo passare al primo ascolto di Guillaume de Machaut, Douce Dame Jolie. Questo è un. Iniziamo proprio con un virelè. Lo sentirete, insomma, se fate attenzione, anche se chiaramente la pronuncia, come dicevo prima, vi suonerà forse un po' strana se conoscete il francese moderno. Qui si parla di francese antico e in particolare delle regioni del nord, quindi c'è una pronuncia un po' particolare, ma se fate attenzione noterete le rime e potrete quindi riconoscere abbastanza facilmente la struttura musicale di cui abbiamo parlato fino adesso. Douce Dame Jolie è in realtà uno dei virelè più famosi, anche una delle composizioni in generale più famose di Guillaume de Machaut, e quindi beh, direi che possiamo partire di qui. Douce dame jolie, pour Questo era un virelè e adesso invece affrontiamo il rondò. In poesia il rondò è una, fondamentalmente una composizione di tre strofe, questa volta chiamiamole strofe, va? Di 5-3-5 o 4-2-4 versi, con due rime e con un ritornello alla fine delle strofe 2 e 3, che riprende il primo verso. Molto in voga nel XVI e XVII secolo, ma anche prima in realtà, come vediamo, e non è mai stato completamente abbandonato, a differenza invece delle altre forme che toccheremo oggi. Ad esempio, una delle forme sono la prima parola o le prime parole vengono ripetute come un ritornello alla fine della seconda terzina e alla fine della poesia. C'è poi una parola o un gruppo di parole aggiunte in più che vengono chiamate clausole o rentrement, però la clausola non conta come verso non deve neanche fare la rima, quindi è una sorta di, non a caso si chiama clausola, cioè fa un po' caso a parte, ecco. Quindi la forma generale del rondò è A-A-B-B-A-A-A-B, quindi cioè separato A A B B A la prima strofa, poi si ricomincia con A A B più la clausola, poi si ricomincia A A B B A e poi la clausola, quindi insomma c'è una certa ciclicità, noterete. Questo era il rondò. Poi invece il lai, che è di origine celtica al termine, in realtà italianizzato spesso al singolare con il termine laio, ma insomma in francese possiamo dire lai, ed è un'altra forma fissa della poesia medievale, che appare per la prima volta nel XII secolo e che poi designerà vari generi diversi tra loro di poesia. Questa parola nel Medioevo, lai, era impiegata come sinonimo di chant, quindi o piuttosto storia cantata o anche di melodie. Quindi si distingue un lai narrativo, che era poi l'antenato del fabliau, e il lai lirico. Questa forma viene praticata dai trovatori, di cui abbiamo già parlato su Radio Wombat, qui è sempre La fuga del gatto, e si diffonde moltissimo, soprattutto tra il XIII e il XIV secolo, un po' in tutta l'Europa settentrionale, ma soprattutto in Francia e in Germania. E in Francia, insomma, ovviamente, è dove i trovatori poi danno forse il meglio di sé, meglio di loro, e dove fiorisce un po' non solo questa, ma insomma questa forma musicale in particolare e anche le altre. La forma poetica del lai ha molte stanze, riferendosi al concetto di stanza che dicevamo prima, ma nessuna delle quali ha la stessa forma. Quindi l'accompagnamento musicale è costituito da sezioni che non si ripetono, e questo in realtà è un po' quello che distingue la forma del lai da le altre altri tipi comuni di strofe che invece venivano incorporati nelle forme che dicevamo prima, come il rondò, ma anche nella ballade che vedremo invece dopo. Io subito, per interrompere il flusso di parole, vi farei sentire, anche per sentire la differenza, un altro brano. Questo è un lai di sempre ovviamente Guillaume de Machaut, che ci serve un pochino per spiegare anche questo tipo di forme musicali. È una composizione un po' più lunga, direi parecchio, sono 16 minuti circa, e si intitola Quinaroy autre de port, eseguita da Marc Moyon e Pierre Hamon. pensieri souvenirs avec l'espoir de joie s'arrête-il tout sur port d'autres conforts vouloir ouvrir car pour un cœur saoulé et soutenu plus qu'il ne doit mérir qui aime fort. Encore y a maintre sort, remembrer, imaginer un doux plaisir. Sa dame veut éloir son gentil port, leur corps doux bien qui sort de son parler et de son doux regarder dont l'entrouvrir peut guérir et garantir amant de mort. Et qui vorrait souhaitier, je n'ose qu'y dire si fou qu'y dire que si aime de cœur entier qui de telle pièce n'a suffisance car qui plus qu'hier il veut tricher sa mort en chier là que fichier daigne par l'œil de son archier son cœur d'os la connaissance car on ne les peut déprisier ne trop prisier tant de légère peur de tout maus allégier et faire par leur grand puissance un cœur navré sans nul danger et délongier de mal et de jouer approchier seulement de leur âme embrasse et pour s'engendrer ces douces pensées à mon cœur est affermé me souviens de la désirée dont ma joie est née et l'espérance doublée qui de lui me vient sans être honorée servie louée crête obéie ta mère faire le convient car s'il y a grève j'aurai destiné beaucoup mort désespéré d'où tout a l'idée mais quand je vois le très bel arroué simple et couessant déroué de son corps de guerre et que je loué par l'air sans effroué par ma foi si mes jouets que toutes jouées faire le douce je l'ai décroué car en moi joué en croué pour ce mon cœur vrai aucun grief pas ne m'en deuil car son trait d'ouri en deuil tout Pour la mienne, pour l'amour s'amour frit, Come avete sentito, non so, probabilmente avrete notato sia un ovvio, cioè, insomma, richiamo, non richiamo, cioè proprio con tutte le zampe dentro, alle tipiche sonorità della musica medievale a cui siamo un po' abituati, a quelle tonalità, quelle scale precise, ma qualcosa anche di un po' diverso, qualcosa un arpeggiare un po' diverso, un po' arabo, un po' spagnolo, e insomma, poi lo vedremo. Guillaume de Machaut era una persona che viaggiava non poco, a quanto, cioè, a dispetto di quello che si può credere, il Medioevo non era così chiuso e così stantio, anzi, probabilmente per certi versi era ancora più, i confini erano molto meno marcati rispetto adesso, e tutto questo ovviamente si rifletteva nella musica, nella cultura che venivano intrise da mille componenti geografiche, insomma, da mille culture. Ma vedremo un po' dopo meglio nella biografia di Guillaume de Machaut, i vari luoghi che ha visitato e quindi probabilmente il perché poi la sua musica si è tinta di vari colori. Le composizioni di cui abbiamo parlato fino adesso. Ora, fino adesso abbiamo sentito in realtà composizioni a una voce sola, ma Guillaume de Machaut è molto famoso, molto noto per la sua polifonia e insomma adesso inizieremo ad entrarci anche in questo stile. E questo tipo di composizioni erano elaborate attraverso delle tecniche di contrappunto. Quello che adesso viene chiamato contrappunto, in realtà molto complesse. Ad esempio, c'era l'Occhetus, ovvero una tecnica a singhiozzo, veniva chiamata così: una voce tace quando l'altra canta e viceversa. Oppure c'era la caccia, in cui una voce ripete in ritardo ciò che l'altra voce ha appena cantato, che poi è il canone. Il chiasmo, due voci si scambiano incrociandosi, due motivi. Oppure c'era il canone cancrizzante, un retrogrado. L'abbiamo visto anche parlando di Bach, ma ovviamente qui siamo nel 1300, insomma, siamo ancora ad avvenire Bach. Canone cancrizzante in cui una voce canta la melodia dell'altra voce partendo dalla fine, e procedendo all'indietro, insomma. L'esempio più famoso di Machaut è La mia fine è il mio inizio è la mia fine. Insomma, è qua Uroboro e quant'altro vi possa venire in mente è esattamente azzeccato. I manoscritti musicali dell'epoca non riportano nessuna indicazione sugli strumenti che bisognava usare, probabilmente perché era un'indicazione ovvia e non, come spesso accadeva, quindi non era considerato interessante, importante scriverlo. Pensiamo che chiaramente la storiografia anche musicale è venuta ben dopo e quindi non c'era la preoccupazione di lasciare traccia poi per il futuro, insomma, tanto si sapeva come dovevamo interpretarle le cose. E le fonti letterarie, le opere teoriche in particolare, ma soprattutto le miniature, i dipinti, le sculture che ritraevano, insomma, che raffiguravano momenti musicali, ecco, in cui si suonava, ci parlano di diversi strumenti. L'organo portativo, che era un organo più piccolo, un organetto, diciamo, un organo portatile, il liuto, ovviamente, il salterio, la viella, che era una specie di antenato del violino, cioè era come possiamo dire, uno strumento ad arco che si suonava esattamente come si suona adesso il violino, cioè tenendoselo sotto il mento, tra la spalla e il mento. Poi c'era la tromba, ovviamente non vi immaginate la tromba di adesso, ma una tromba antica, i flauti, l'arpa, vari tipi di campane e vari tipi di percussioni, di strumenti a percussione. Vi farei sentire un altro brano musicale, questa volta dove sentirete più voci intersecarsi. Qui si tratta di una ballade, un'altra forma musicale, che poi ha avuto molta fortuna, è stata ripresa e in qualche modo sviluppata in contemporanea, non solo in Francia ma anche in Italia. Questa ballata in particolare si intitola De Fortune me dois plaindre et lo est. E ovviamente sempre Guillaume de Machaut, il compositore, e questa versione è dell'ensemble Musica Nova. Thank you. dovete permettere di dedicare questa puntata a mio grande amico che se ne sta a vivere nelle lande, in quelle lande fredde inglesi, e che ad Hack Meeting doveva, insomma, insieme dovevamo allietare l'Hack Meeting con i nostri canoni a due voci, le nostre pavane e tanti piani avevamo in mente, e poi invece siamo stati risucchiati da questa centrifuga di cui accennavo all'inizio puntata, e persi come trottole entrambi a fare mille cose. Alla fine non ne abbiamo fatte di niente, e vorrà dire che le nostre pavane e i nostri canoni risuoneranno nei rispettivi paesi, ma da lontano, insomma, in qualche maniera riusciremo a far incrociare le nostre voci lo stesso. È solo rimandato, ecco. Torniamo al nostro Guillaume de Machaut, di cui adesso urge un pochino dare dei dettagli biografici e raccontare un po' la storia. Dicevamo che è nato più o meno tra il 1300 e il 1302, ecco, probabilmente nella cittadina di Machault, che dir si voglia, a circa 30 km a nord-est di Reims, o comunque insomma nella regione di Reims, ecco. Non si sa molto dei suoi primi 20 anni di vita, tranne che prese gli ordini minori da giovane. Questo non ci deve stupire, era un po' così nel Medioevo, era molto frequente, e non ci deve stupire neanche il fatto che poi i temi di cui parla, insomma, la poesia, la musica di Machaut, parla assolutamente, rientra perfettamente all'interno delle tematiche dell'amor cortese. Tutto ciò era estremamente ovvio e frequente e usuale, ecco, al tempo. Fu educato sicuramente a Reims, e lì fece la conoscenza di signori d'alto rango, insomma, frequentò le cerchie, quelle buone. Dal circa 1323 al 1346, Machaut fu segretario al servizio di Giovanni I, il conte di Lussemburgo, re di Boemia, che poi accompagnò nei suoi viaggi e nelle sue campagne militari. Poi, appunto, come vi dicevo, questo è uno dei motivi per cui poi Machaut gira un po' il mondo, beh, il mondo, insomma, un pezzettino di mondo, ecco. Nel 1324 compone la sua prima opera, di cui almeno si ha conoscenza, il mottetto Bon Pastor Guillaume, dedicato al nuovo arcivescovo di Reims, Guillaume de Trier. E nel 1330 viene nominato canonico a Verdun, e nel 1332 ad Arras, poi nel 1337 canonico nella cattedrale di Reims. Insomma, in un certo modo fa carriera. 3 anni dopo si stabilisce a Reims, dopo aver lasciato gli altri posti di canonica, quelli di cui dicevamo prima, su richiesta di Papa Benedetto XII, e lì si dedica alla poesia e alla musica, continuando però in contemporanea a partecipare alla vita di corte e agli eventi mondani. Tutto ciò, ripeto, era abbastanza usuale e normale, non ci dobbiamo fare l'idea, cioè, d'altronde lo diciamo spesso da questi microfoni, l'idea che ci siamo fatti del Medioevo come un qualcosa di molto rigido, chiuso, nero e cupo, la dobbiamo proprio scartare, la dobbiamo proprio riscrivere. Vivendo alla corte di Giovanni, Guillaume de Machaut acquisì la passione per la falconeria, la cavalleria e l'avventura. Cioè, capito, sti preti non erano appunto sti menagrami come ce li possiamo immaginare. Accompagnò Giovanni I nei suoi viaggi, principalmente militari, oggettivamente, attraverso l'Europa, in particolare a Praga, partecipando alle campagne di Slesia, Polonia nel 1327, Lituania nel 1329 e in Italia nel 1330. Di questi diversi viaggi ha lasciato traccia in molte opere, in realtà, in particolare nelle Confort d'Ami e la Prise d'Alexandrie. Machaut parla di Giovanni I come il re ideale, un uomo coraggioso e generoso. Nel 1346, però, Giovanni I rimane ucciso durante la battaglia di Crécy e Machaut entra al servizio di vari signori, insomma, si succedono un po' i suoi capi, come dire, tra i quali nel 1347 la figlia del suo vecchio patrono, Bona di Lussemburgo, non fate battute stupide e dozzinali, per la quale scrisse Remedio de Fortune e un mottetto. Ma ahimè, questa Bona di Lussemburgo muore a causa della peste nera nel 1349. Allora poi Guillaume de Machaut si affida a Carlo II di Navarra, ovvero Carlo il Malvagio, deve essere un bel personaggio, per il quale scrisse Confort d'ami. Dal 1349 al 1357, più o meno, ecco, quando Guillaume de Machaut, è il periodo in cui sta sotto questo Carlo II di Navarra. Ma in seguito, anche per i figli di Bona di Lussemburgo, Giovanni di Berry, a partire dal 1357, e Filippo il Coraggioso e Carlo, duca di Normandia, che poi diventò re con il nome di Carlo V di Francia nel 1364, e poi anche altri ancora, Carlo II di Navarra e altri, insomma. Quindi ecco, diciamo che Guillaume de Machaut se li gira un po' tutti e presta servizio come musicista e poeta nelle corti più importanti e tra i signori più importanti dell'epoca. Costantemente quindi sotto la protezione di questi signori, questi principi, al tempo stesso si dichiarava poeta di corte, ma anche in qualche modo poeta autonomo. Erano i tempi in cui questo era ancora possibile. Sopravvisse alla peste nera, come insomma si sa, fece vittime un po' in tutta Europa, e Reims trascorse gli ultimi anni della sua vita a comporre e a riordinare e perfezionare i suoi manoscritti. Verso la fine della sua vita fu ancora al servizio di Pietro di Lusignan, al quale dedica la Prise d'Alexandrie, e di Amedeo di Savoia, per il quale scrisse L'Édit de l'Harpe. Ultima nota così buttata un po' lì del 1362 è il suo amore per la 19enne Péron d'Armentier. Questa relazione gli ispira una sorta di romanzo epistolare inframmezzato da 7 composizioni liriche, Le Vuor di Il Vero Detto. 1365. In realtà di autobiografico probabilmente c'era ben poco in questo romanzo, ma ecco, anche qua sfatiamo il mito del prete precisino, semmai ce l'avete avuto questo mito, siete strani, se ce l'avete avuto, ma insomma, se ce l'avete, ecco, soprattutto nel Medioevo, toglietevelo dalla testa. Adesso, penultimo ascolto della puntata di oggi, J'aime sans penser, e questo qua invece è un brano strumentale, breve, un piccolo brano intermezzo, per poi continuare a parlare di Guillaume de Machaut. Thank you. Questo era J'aime sans penser. La musica di Guillaume de Machaut è probabilmente una dei più alti esempi dell'Ars Nova francese. Come dicevamo prima, risente moltissimo di tutta la poetica dell'amor cortese, della poesia trovadorica. Risente, diciamo che ne è proprio intriso. Ma in realtà ha delle innovazioni sia nella forma e nel genere, e proprio anche nello stile, ecco, nel poi andarla a esporre. Al di là della tecnica, della composizione di cui parlavamo anche inizio, trasmissione, diciamo che rispetto all'Ars Nova italiana, quindi all'amor cortese italiano a cui siamo abituati, dove c'è una sensualità e tutt'altro che così, che sottointesa, insomma, è anche tutto piuttosto esplicito, invece nella poetica, nella musica di Guillaume de Machaut c'è una intimità sentimentale molto più discreta, diciamo così. È tutto un po' più sottointeso, più accennato. I colori sono tinteggiati in maniera meno palese, meno vivace, ecco, ma non per questo meno intensi. Tutto ciò ovviamente è anche molto da riferirsi alla cultura francese dell'epoca, insomma non era un caso, tutto è molto legato. Una delle forme fondamentali dell'Ars Nova, di cui non abbiamo parlato fino adesso, dell'Ars Nova francese, di cui non abbiamo parlato fino adesso, e di cui però per forza dobbiamo parlare in chiusura, è il mottetto. O meglio, questo particolare tipo di mottetto che viene chiamato isoritmico, di cui Machaut fa ampio uso, e poi che viene esteso anche a altre forme polifoniche profane, vedremo, non soltanto sacre. Su questo modello, però, del mottetto isoritmico, vengono scritte quasi tutte le parti della Messe de Notre-Dame, che è una composizione scritta probabilmente per l'incoronazione di Carlo V di Francia, detto il saggio, comunque meglio che il malvagio, direi, e pare che sia la prima messa polifonica dovuta interamente a un unico autore, insomma, l'unica, almeno che è arrivata fino a noi, interamente composta da un unico autore. Viene basata sul principio della simmetria e dell'armonia del numero. Dovete immaginare che la Messa di Notre Dame, così come moltissime altre composizioni sacre dell'epoca, riflettevano il gotico dentro la musica, cioè non era un caso. La Not Notre Dame, ahimè, cioè, purtroppo adesso, al giorno d'oggi, nel 2019, ci ricordiamo di Notre Dame in fiamme, ma comunque sia, l'architettura meravigliosa di Notre Dame e in generale delle cattedrali gotiche avevano come valore fondante queste simmetrie, queste proporzioni matematiche con cui venivano costruite e che ovviamente riflettevano un pensiero filosofico e religioso molto preciso e che poi era la base di tutto il gotico. Ecco, tutto ciò ovviamente si rifletteva anche nella musica. La musica contribuiva a questo specie di discorso corale con gli stessi, mettendo in musica gli stessi principi. Quindi all'interno della polifonia sacra dell'epoca tutto era proporzionato numericamente e in maniera simmetrica e armoniosa. Come ogni piccolo pezzetto stava a costruire poi a suo modo questo enorme edificio elevato verso l'alto, come appunto una cattedrale gotica. Quindi in questo caso, molto diverso da ad esempio la polifonia che verrà dopo rinascimentale inglese, dove erano le voci, era in qualche modo anche la sapienza delle singole voci a armonizzare, a dare una massa e un corpo, qui invece era, come dire, l'intelligenza di chi scriveva, il compositore, le singole note e tutto il disegno che stava dietro, che facevano sì che si creasse questo corpo e questa massa, appunto, armoniosa come una cattedrale. Per darvi un esempio, che poi è l'ultimo ascolto, peraltro, di oggi, vi lascio con questo rondò a tre voci. Quindi, non vi immaginate appunto un mottetto sacro come quelli che stanno dentro la Messe di Notre Dame, ma comunque serve in piccolo a dare un esempio di tutto ciò e peraltro forse anche un po' più intellegibile, un po' più chiaro, essendo a meno voci, si riconoscono meglio gli elementi che si rincorrono. Più che nobly, si intitola questo rondò a tre voci di Guillaume Machaut, ovviamente. Con questo vi lascio e vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima, in cui spero di essere in compagnia della mia compara, come si dice, compara, compare al femminile, beh, comparessa. Quella lì è la gatta. E a voi vi do, boh, che dirvi, un buon pomeriggio, buona serata, no, quello lo dice Mike, buongiorno. Insomma, fate quel che vi pare e ci risentiamo da questi microfoni domenica prossima, sempre intorno alle 18:30. Ciao ciao! Please.